Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. In occasione di un seminario all'università, un alto dirigente della polizia scientifica accennò sommessamente che se per l'africano Lumumba non ci fosse stata la prova del DNA del delitto Meredith, probabilmente si troverebbe ancora in una cella della quale sarebbe stata buttata via la chiave. Ora, i due rumeni additati come mostri, quelli che alcuni volevano linciare, sono stati scagionati dalle prove scientifiche. Senza queste prove, anche loro sarebbero in una cella di cui si sarebbe già persa la chiave. Questi episodi non insegnano nulla? Viva la scienza e abbasso la barbarie dei linciaggi, reali e mediatici, facili e improvvisati. Laura. Si passa sempre da un estremo all'altro. Il cittadino romeno Ractz è passato nel giro di pochi giorni da carnefice a quasi mancato santo. Un errore giudiziario è sempre possibile, a maggior ragione se avvallato da una confessione diretta di un sospettato che ha sviato le indagini. Ora in televisione questo personaggio appare circondato da un'aureola di vittima e anche il viso è diventato improvvisamente quello del bravo ragazzo sfortunato. Si fa molto in fretta a creare il mostro, ma attenzione a non rendere un cherubino chi magari proprio non lo è. Chiediamogli scusa, ma non caliamo l'attenzione su certe problematiche. Giulia. Gli italiani del centro-nord all'estero sono spesso identificati come calabresi, siciliani, eccetera. Così i romeni sono identificati nella psicologia sociale come Rom, che tuttavia non c'entrano nulla con i romeni. I Rom sono un'etnia transnazionale che storicamente si è mossa tra Romania, Ungheria e dintorni ed è detestata da questi, che cercavano di liberarsene continuamente scaricandoli ai vicini. Io sono di Rieti e ho vissuto 7 anni in Germania. Quando litigavo con qualche tedesco, mi sentivo accusare talvolta di essere mafioso, mentre di meridionale non ho proprio nulla, né culturalmente né nell'aspetto fisico. Purtroppo le comunità dove la delinquenza predomina producono facili semplificazioni nell'immaginario collettivo. È successo per noi italiani e succede ora per i romeni. Lettera firmata. Gran parte del patrimonio edilizio del nostro paese è vecchia, fatiscente, indecorosa e considerata l'età e le caratteristiche del cemento armato a rischio di crolli. Basta e avanza per decidersi a iniziare a demolire e ricostruire con sistemi moderni, antisismici, con materiali che hanno caratteristiche di coibentazione e fonoassorbenza, attenzione all'efficienza energetica, al risparmio di energia per il riscaldamento e il condizionamento, migliore comfort, costi di gestione più ridotti e per almeno un ventennio niente spese di manutenzione straordinaria per rattoppi vari e adeguamenti alle norme vigenti. La ricostruzione delle case vecchie è la norma ovunque, così come la rapidità di costruzione. Ovunque si portano a compimento opere faraoniche senza tanti clamori. Ponti, grattacieli, treni superveloci, porti, aeroporti, senza la mobilitazione del partito del no, come lo abbiamo noi, e senza che anche una sola della nostrana miriade di istituzioni che detengono il micidiale potere di veto possa bloccare o ritardare di decenni la costruzione di un'opera piccola o grande, pubblica o privata. Una buona percentuale degli italiani è costituita da vecchi o da giovani con mentalità da vecchi. Hanno paura del progresso e preferiscono l'accanimento terapeutico edilizio nei riguardi di interi quartieri costruiti nel dopoguerra con materiali scadenti, molti dei quali da allora non hanno mai visto l'opera di un pennello. Nell'ipotesi che qualche condominio più coraggioso e pragmatico voglia approfittare di questa formidabile opportunità del piano casa, abbattendo uno stabile vecchio e sostituendolo con un edificio nuovo, maggiorato del 35%, fatti 2 conti sull'incremento di valore acquisito dalla nuova costruzione, si renderebbe conto di aver vinto una sorta di terno al lotto. Questa opportunità avrebbe anche il merito di bloccare il caotico espandersi di villettopoli, fenomeno che sta divorando selvaggiamente il territorio dell'Interland delle grandi città con la costruzione di una miriade di villette di pessima qualità, cosa che incrementerà ulteriormente i problemi legati al pendolarismo quotidiano. Consentire la costruzione di un numero limitato di palazzi alti al massimo 20 piani, edificati con l'obbligo tassativo di 2 posti auto per appartamento e di edifici adibiti a garage multipiano, come se ne vedono in tutto il mondo, potrebbe rivelarsi la panacea per molti dei mali che affliggono le nostre metropoli. Mi rendo conto che una tale proposta scatenerebbe la mobilitazione di tanti sedicenti ambientalisti che militano nel partito del no. Ciò significa che sarebbe cosa buona. Lettera firmata. Mentre tutti gli indicatori e le aspettative sono rivolti al ribasso e le aziende rimangono pessimistiche sull'andamento degli ordini, esse stesse contribuiscono in maniera determinante al calo della domanda, grazie al decumulo dei magazzini, al rinvio degli investimenti e al fortissimo taglio dei costi. I timori di disoccupazione, con effetti devastanti sul PIL e sul sistema pensionistico, inducono le famiglie a risparmiare di più, peggiorando ulteriormente le prospettive per i consumi. Questo è il meccanismo perverso che occorre bloccare, ma non lo si può fare con misure transitorie come gli ammortizzatori sociali. Chi viene espulso non rientrerà più con contratti a tempo indeterminato e farà confluire su di un sistema rigido, quale quello italiano, un'incertezza permanente che impedirà all'economia di progredire e al PIL di crescere. Diverremo un paese che vive alla giornata. Niente investimenti per la casa, niente famiglia. Un paese di single flessibili, utile al sistema delle imprese, ma che sconvolgerà gli assetti del paese. Dal punto di vista occupazionale, l'Europa nel 2008 ha retto, registrando contrazioni dell'occupazione limitate. Di fatto, l'anno scorso, la recessione si è tradotta in un calo della produttività del lavoro, più che in perdite occupazionali, e ciò grazie al sistema europeo. Ecco perché in Europa la recessione è meno grave. Questo, tuttavia, ha fatto sì che si stia formando un eccesso di manodopera nel sistema produttivo, cui potrebbe fare seguito un'espulsione intensa nei prossimi mesi. Le premesse ci sono tutte e sono riflesse dai risultati dei sondaggi presso le imprese, che rivelano come queste prevedano un ridimensionamento degli organici nei mesi a venire. Sia pure in ritardo, quindi, la crisi del mercato del lavoro sta arrivando. Vanno enfatizzati il ruolo della politica fiscale e gli aiuti diretti alle aziende in crisi, come ad esempio la defiscalizzazione di tutto l'utile prodotto o la compartecipazione statale a tempo determinato. È importante salvaguardare gli attuali livelli occupazionali ed è fondamentale bloccare i tentativi di ristrutturazione mascherati da crisi, cercando di tenere duro per altri 6 mesi. Meglio un piccolo danno alle casse dello Stato per 6 mesi che enormi perdite nei livelli di PIL raggiungibile nel futuro. Alessandro. Caro direttore, in una sua risposta lei ha citato un economista del passato che ha detto che, pur di dar lavoro alle persone, gli si possono far cavare delle fosse di giorno per fargliele poi riempire di notte. È un po' quello che si sta cercando di fare con l'attuale crisi economica. Assicurare i consumi a tutti i costi, qualsiasi sia il prodotto e la sua utilità futura. Continuare uno sviluppo che in molti casi non ha senso. Certo, la riconversione di prodotto o le ristrutturazioni sarebbero lunghissime, ma che senso ha, solo a titolo d'esempio, sostenere l'uso delle auto private o del trasporto su gomma? Che senso ha andarsi a cercare sempre un telefonino nuovo più performante, maledetta stupida performance, o comprarsi 10 abiti o tanti servizi di piatti? Questo ubbidisce solo alla pubblicità. Addio PIL, quello che Robert Kennedy definì non misuratore della felicità dell'uomo. Lei ha detto che questo eccesso di produzione un senso lo può avere, più o meno quello di aiutare e donare ai paesi poveri, ancora da educare al nostro stile evoluto. Campacavallo, Angelo. Caro Angelo, lei sostiene che di fronte all'attuale crisi economica sia indispensabile ridurre la produzione, chiudere le fabbriche, assecondare una riduzione dei consumi, diminuire quello che chiamiamo il tenore di vita. Certo, sono d'accordo nel combattere gli sprechi, ma non ho alcuna nostalgia della società più povera e in fondo con meno libertà. L'automobile è un grande strumento di libertà, ma va usata con intelligenza e anche con rispetto. E così il telefonino è ormai un compagno indispensabile, ma va utilizzato per la sua utilità e per la sua capacità di metterci in relazione con gli altri. Vede, caro Angelo, c'è nella sua lettera un vago fastidio verso il progresso, verso le novità, in fondo anche verso la ricerca di prodotti nuovi e capaci di offrire maggiori soddisfazioni. E si contrappongono queste novità alla felicità, che in fondo è l'obiettivo giusto di ogni persona. Ma la felicità non sta forse in un'auto nuova o in un telefonino con 1000 applicazioni. sta probabilmente più nei valori, nelle relazioni con gli altri, nella solidarietà. Sta nella possibilità di ciascuno di seguire i propri interessi e di sentirsi in pace con la propria coscienza. Ma il primo passo è quello di garantire i bisogni essenziali al numero più vasto possibile di persone. Allora è giusto indirizzare il progresso alla soddisfazione non solo dei bisogni individuali, ma anche del benessere collettivo. E resto convinto che una più equa distribuzione delle ricchezze a livello mondiale sia non solo possibile, ma sia la strada più corretta per garantire anche ai paesi ricchi di poter mantenere il proprio livello di vita. Brunetta, come al solito, sta sbagliando bersaglio. Fra i tanti dipendenti pubblici fannulloni, se la prende con gli unici controllabili e costretti a lavorare, quelli cioè che hanno contatti diretti con il pubblico e stanno agli sportelli. Coloro che non hanno contatti con il pubblico, la stragrande maggioranza, continueranno a fare tranquillamente i loro porci comodi, alla faccia del semaforino proposto da Brunetta. Perché non si parla mai dei dirigenti, che oltre ad avere un lauto stipendio si rubano anche le ingenti somme stanziate per gli straordinari? Perché il ministro non indaga veramente sullo stato in cui versa il personale di alcuni ministeri, ormai costretti a non lavorare per mancanza di fondi? Perché non si riorganizzano gli organici sovradimensionati di alcuni uffici, dove ormai ci si calpesta i piedi a vicenda e si lavora con tutta la buona volontà al massimo un'ora al giorno? Sandra. Franceschini esagera nel dire che Berlusconi va a candidarsi per fare i fatti suoi. Magari avrà iniziato 15 anni fa per quel motivo, ma poi, secondo me, ci ha preso gusto e si sarà fatto anche un esame di coscienza, pensando che poteva far qualcosa di buono per questo povero paese debosciato. Ciò non di meno, credo che se Franceschini esagera a dare dell'egoista al cavaliere, Berlusconi e i suoi esagerano a dare addosso ai comunisti, che in questo fortunato paese baciato dal sole in realtà non ci sono mai stati e mai ci saranno, vista l'italica abitudine di farsi i fatti propri. Le esagerazioni, quando fanno comodo, vanno sempre bene, perché è solo grazie alle esagerazioni che un certo tipo di persone si rende conto di avere le orecchie. Giovanni. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.